Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte. Contrariamente al nostro solito orario, quest'oggi partiamo un po' in anticipo perché abbiamo una graditissima ospite. Intanto vi ricordo che quella che state per ascoltare sarà la nostra 331esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, che è una trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 MHz di Radio Onda Rossa nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito. Dicevo prima che qui in studio stasera con noi c'è Pina Nuzzo, che incontriamo sempre con piacere. Con Pina abbiamo spesso collaborato e sempre con grande profitto. Lei non ha bisogno di grandi presentazioni, diremo soltanto due parole su di lei, che è una compagna intanto, una femminista, una politica, un'artista, precisamente una pittrice di grande talento. Per molti anni ha lavorato con l'UDI curando alcuni importantissimi progetti, ad esempio la campagna 50 e 50 ovunque si decide, oppure la staffetta di donne con l'ormai storica Anfora, all'interno della quale tutte potevano raccontarsi e raccontare la violenza sulle donne sperimentata, conosciuta o purtroppo subita. E ancora la campagna Immagini Amiche, con la quale denunciare la pubblicità le pubblicità che offendevano le donne. E un'altra infinità di iniziative e progetti. Oggi si occupa di Laboratorio Donne, che è un blog, un laboratorio di ricerca sul pensiero e sulla rappresentazione che le donne si danno in politica. Proprio con Laboratorio Donne, lo scorso 14 aprile, ha promosso un incontro a Lecce dal titolo Il corpo generativo delle donne, partecipando con un suo contributo che si intitolava La donna frantumata, nel quale affronta il tema della GPA. Per questo noi abbiamo deciso di incontrarla e nell'incontro preliminare a questa nostra trasmissione abbiamo proprio discusso rispetto alla gestazione per altri. Però prima di darle la parola vorrevo mettere uno stacco musicale, così mi rimetto a posto tutte le cose che mi si sono spostate nel frattempo, e quindi ascoltiamo dalla voce di Emily Simon il brano Flower. Aspettate che lo devo ricercare, perché come dicevo mi si è spostato tutto. Aiuto. La tecnologia, come vedi, Pina, facevamo giusto questo discorso sulla tecnologia. Buonasera, intanto ecco qui abbiamo con noi Pina Nuzzo, grazie, sempre un per questa. Eccola, l'ho ritrovata, l'abbiamo ritrovata. Mi sembra, con me c'è Rosina, scusa. È il bello della voice. Diretta. Eccola qui. Flower. Flower. Such a shame you're a boy, but when you are not a girl, nobody buys you flowers. I want to buy you flowers. And now I'm standing in the shop, I must confess, I wonder if you will like my flowers. allora rieccoci nuovamente in studio con Pina, che salutiamo di nuovo e ringraziamo ovviamente per essere qui a discutere, abbiamo detto, di gestazione per altre. Abbiamo già affrontato questo discorso insieme a Susanna Lollini da un punto di vista giuridico. Susanna, lo ricordiamo, è un'avvocata che da anni segue le questioni legali sia in Italia che all'estero, che sono appunto legate a questa alla gestazione per altri, ma stasera insieme a Pina cercheremo di analizzare invece altri aspetti, quelli più prettamente politici. Pina, sappiamo, come ha ricordato Caterina nella introduzione, che tu hai avuto modo appunto di approfondire questo argomento in questo bell'incontro che si è tenuto a Lecce, appunto il corpo generativo delle donne. Raccontaci magari qualcosa di questa iniziativa e poi andremo avanti, insomma, in base a quello che tu ci dici. Allora, intanto buonasera, mi fa sempre molto piacere tornare qui, incontrarvi e anche a noi e scambiare i nostri pensieri, anche quello che ci siamo dette l'altra sera, in qualche modo ritrovarci. E sì, mi fa molto piacere ripartire proprio dall'incontro di Lecce, perché è un incontro che ha avuto una lunga gestazione, visto che parliamo di gestazione per altri. E tutto è cominciato nel 2005, credo fosse l'inizio dell'anno, quando ho incontrato Irene Strazzeri, perché mi voleva regalare il suo libro che era appena uscito, un libro tra l'altro molto interessante, che si chiama Post Patriarcato, l'agonia di un ordine simbolico. Ricordo che in quel periodo Irene era quasi verso la fine della sua gravidanza, stava per avere il suo bambino. In quell'occasione Irene mi disse che era molto interessata ad approfondire con me il discorso sulla maternità, perché aveva letto tutti gli articoli che avevo pubblicato e non me ne ero neanche resa conto di quanti ne avessi pubblicati in laboratorio donne. Ma questa mia attenzione alla maternità è un'attenzione che dura da tempo. Prima ancora di avviare l'esperienza del laboratorio, anche nell'UDI e anche in diverse altre occasioni, ricordo un convegno dello IAF Italia su questo, ho cercato di andare oltre il concetto di tutela rispetto alla maternità. Scusate se mi dilungo un po' su questo, però secondo me serve per entrare poi nel discorso. Ti chiedo soltanto una cosa, di parlare più vicino al microfono. Sì. Grazie. Per una ragione fondamentale, secondo me è importante che ritorno su questo passaggio, perché grazie alla contraccezione le donne oggi possono separare il corpo riproduttivo dal corpo sessuato. E vale la pena ricordare, per chi è più giovane, che fino all'approvazione della 194 la contraccezione nel nostro paese era illegale. Certo. Stiamo parlando del 1978. Quindi oggi, forse non tutte, ma sicuramente tante donne, donne che sono anche informate, e mi auguro che lo siano, possono scegliere se e quando diventare madri. Per questo noi vecchie femministe, con tutta quella storia, non sottolineare troppo questo vecchio, femministe, storiche, ci siamo battute quindi per poter scegliere se e quando, e quindi oggi secondo me a questo punto dovremmo essere in grado di dire quale ricaduta ha avuto, quale ricaduta ha la possibilità di controllare la propria fertilità nel rapporto con il proprio corpo e con l'altro sesso. Però devo anche dire che, anche se io ho sollecitato spesso questo dibattito sia nell'UDI con le più giovani sia nel laboratorio, è un dibattito che non è mai decollato. E io ho avvertito che in questa mancanza, in questa mancata riflessione, proprio a partire dalla 194, e su che cosa comporti avere un corpo che può generare, sulla responsabilità, sul privilegio che ne conseguono, questa è una è un rischio enorme, un rischio concreto, è che la 194 diventi un mezzo di controllo delle nascite. So di dire una cosa insomma che pesa. È una cosa pesante, ma è una cosa che secondo me, sulla quale bisogna che noi torniamo, perché di questo si evita di parlare con la scusa che è uno degli argomenti con cui la destra. I conservatori di ogni genere tentano di mettere le mani sulla legge. però io penso anche che un atteggiamento sulla difensiva in questo senso è controproducente. Questo ha impedito, secondo me, in questi anni un confronto reale tra di noi. E tutto sommato ha impoverito anche la nostra politica e reso inefficaci tutte le azioni che avremmo potuto fare e che non abbiamo fatto o che abbiamo anche fatto contro l'uso strumentale dell'obiezione di coscienza. Certo. Questo è stato tutto un insieme di ragionamenti fatti con Irene, ne abbiamo parlato e io, come dicevo prima, ho anche scritto molto su questo e ho chiesto a delle donne di scrivere. Nel frattempo io e Irene ci dicevamo che volevamo fare un dibattito pubblico su queste questioni e intanto è scoppiata la questione delle adozioni del figliastro con il decreto legge Cirinna, con la legge ormai. Sì, ma allora era il decreto. Allora, certo, sì, lo ricordiamo, sì, la settimana, sì, scorsa, certo, insomma, la legge è passata anche in Parlamento. Io sto parlando della fase precedente del dibattito, certo, del Senato. E quindi quello che è esploso in quella situazione ha rafforzato in noi l'idea che comunque valeva la pena aprire un dibattito. Tra l'altro il decreto legge Cirinna ha riguardato le coppie omosessuali nel dibattito, in quello che si diceva, però noi sappiamo che non è solo questo il punto. Però la nuova situazione che si era determinata ha rafforzato sia in me che in Irene l'idea della necessità di un confronto pubblico proprio sul corpo generativo delle donne. E voglio qui aprire due virgolette e citare quello che Irene ha scritto proprio in vista dell'evento di aprile. Lei scrive: è un argomento tosto la maternità surrogata, difficile, duro, che divide piuttosto che unire nel desiderio di conoscere. A me ha già procurato rotture emotive, distacchi, allontanamenti. Ho anche subito discriminazioni e offese per le mie idee a riguardo. Ecco, questo è lo sfondo e la relazione che hanno reso possibile l'incontro a Lecce, e ci è dispiaciuto non avere un contraddittorio tra le relatrici, ma le donne interpellate non se la sono sentita di parlare pubblicamente e io mi auguro ci sia poi un'altra occasione. Ok. Sì, no, io volevo ritornare un attimo, se mi permetti, a quella cosa che hai detto, no? Perché allora io diciamo, essendo lesbica, non ho mai corso sostanzialmente il rischio di rimanere incinta, no? L'unica possibilità che avrei avuto per rimanere incinta sarebbe stato essere stuprata e basta. Però il fatto di che molte donne che potrebbero avere accesso grazie alla conoscenza a delle forme contraccettive che invece si rivolgono all'aborto mi fa pensare a quanto poco abbiamo riflettuto, esatto, esatto, capito, esatto, che non è consegnarsi alla destra o alle forze conservatrici di questo paese, ma di provare a indagare e trovare nelle nostre parole, nelle nostre ragioni, che cos'è che rende oscuro quel rapporto tra il nostro corpo generativo e il corpo sessuato, sono due cose molto assolutamente diverse. Senti, io sempre andando avanti e andare un pochettino più nello specifico, no? Volevo chiederti alcune cose. Allora, la GPA, cioè la gestazione per altri, è una pratica che può rendere genitore chi naturalmente non riesce a diventarlo. Ed è per questo, ricordiamo, che viene molto usata dagli eterosessuali che non riescono a procreare. La GPA è stata catapultata però alla ribalta dell'opinione pubblica in quanto inserita appunto nella legge Cirinna e all'eventuale utilizzo che avrebbero potuto farne le coppie gay. Sì. A questo proposito noi lesbiche femministe ti domandiamo: cosa pensi tu della GPA e cosa ha spostato questa pratica nella concezione della maternità? Scusa, prima che tu risponda, sì, prima vorrei fare una piccola precisazione. Sì. In realtà nella legge, né nel decreto né nella legge, non è prevista la GPA, e proprio per questo è stata, diciamo, infilata che la in legge, questo discorso. La legge nella... 40 già la vieta. Sì, la legge 40 la vieta nel nostro paese. Sì, sì. In realtà però è stata, diciamo, un po' tirata per i capelli, esatto, proprio per il discorso dell'adozione, della stepchild adoption. Certo. Però in realtà non è menzionata. Mm-hmm. La stepchild adoption è ancora proibita. Esatto. È stata stralciata dal prima dal decreto Cirinnà, poi insomma anche in prima battuta in Senato, proprio per evitare che si arrivasse all'utilizzo di quella, certo, di quella, certo, tecnica. Sì, scusate, era solo per mi sono espressa per male, dovere di chiarezza. Hai fatto benissimo. Per dovere di chiarezza. Sì, sì. No, ma questo appunto di Rosina è molto importante, almeno per me, perché mi serve sempre per fare un passo indietro. Mm-hmm. Io credo che per capire il dibattito che c'è oggi in atto tra le donne, perché poi questo è quello che mi appassiona e mi interessa, dobbiamo anche guardare cosa abbiamo immediatamente dietro le spalle, no? Mm-hmm. E la prima cosa che io mi sento di dire, su cui mi vorrei soffermare, è che la capacità di generare è cosa ben diversa rispetto all'essere genitori. Assolutamente, ecco. Sì. Quindi la parola genitore è un'altra cosa. Genitori è andata via via perdendo il suo carattere iniziale. No, noi una volta, quando dicevamo genitori, pensavamo la mamma e il papà. Mm-hmm. Cioè, questo pensavamo. Certo. Invece è diventata man mano una parola neutra, una parola, mi viene da dire, politicamente corretta. Questa è una fase storica in cui bisogna essere politicamente con tutte le tragedie che ne derivano. Io però diffido, sì, molto da quel politicamente corretto, che è un modo di leggere la realtà che appiattisce le differenze, azzera i conflitti. Come se riconoscere le diverse esperienze, avere corpi diversi, diverse anche per i sessi, non facesse crescere tutti, non fosse un arricchimento. Quindi, certo, io vorrei intanto partire da questo. Mm-hmm. E io non lo so se voi ricordate la polemica scoppiata qualche tempo fa, penso fosse il 2013, però la ricordo ancora, a proposito della proposta della consigliera comunale di Venezia, forse si chiamava Seibezzi, non ricordo bene. Mm-hmm. Comunque era la delegata del sindaco ai diritti civili e alle politiche contro le discriminazioni. Mm-hmm. Fu lei quella che proponeva di dire addio alla dicitura mamma e papà, genitore 1 e genitore 2, genitore 1 e genitore 2, l'iscrizione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia, appunto proponendo genitore 1, genitore 2. Mm-hmm. Già il termine genere a quel punto aveva soppiantato la parola sessi nel linguaggio moderno e politicamente corretto, anche a livello di istituzione. Molte mamme, ne ricordo una in particolare in quel caso, si ribellarono, però molti e molte a sinistra e anche in ambito femminista sostenevano la proposta dell'assessora. E c'era un clima favorevole a questo slittamento, no? La realtà intorno a noi stava già cambiando, indipendentemente dalle leggi vigenti. Allora, e forse per questo, secondo me, che il rifiuto di molte femministe verso l'utero in affitto, quando è venuto avanti il decreto legge Cirinnà, ha sorpreso e per certi versi forse meglio dire indispettito parte del movimento GLBT e delle femministe che invece erano favorevoli, perché pareva che intorno ci fosse un contesto molto più acquiescente su questo argomento. Mm-hmm. C'è anche da dire, e lo voglio dire con molta tranquillità, che prima di quel decreto legge di quel dibattito, io personalmente non avevo idea che così tante coppie etero ricorressero all'utero in affitto, né che così tanti gay volessero diventare genitori a ogni costo, andando anche all'estero, spendendo soldi e anche un bel po' di soldi. Un bel po'. Quindi scusate se faccio questi passi indietro. No. Però voglio anche ricordare, e questo è ancora forse più indietro, che c'è stato un tempo in cui l'espressione utero in affitto è stata usata con l'intenzione esplicita di colpevolizzare le donne che, non potendo fare figli, si rivolgevano ad altre perché portassero avanti una gravidanza per loro conto. Sto parlando del referendum, quando c'è stato il referendum sulla PMA. sulla procreazione medicalmente, medicalmente assistita. In quel caso, quando serviva per colpevolizzare le altre donne e dire che utilizzavano altre per compenso, si utilizzò anche su tutti i media l'espressione utero in affitto. E allora si disse, anche con qualche ragione, che le donne dei paesi ricchi avrebbero sfruttato le donne dei paesi poveri. Ora, in quel periodo, appunto era il 2005, io stessa ho firmato un appello insieme ad altre, anche tante femministe note, chi vuole poi lo può cercare, questo appello intitolato Il primato della madre, dove si diceva, e scusatemi se leggo dei virgolettati questa sera, ma mi sembra importante: ci interessa tenere aperto lo scarto incolmabile tra i desideri e i diritti. E ribadiva il principio che, virgolette, senza la madre non vi è vita, neppure biologica, che possa svilupparsi, né alcun diritto da rivendicare, a cominciare da quello a nascere. Se è vero che la tecnica fa scomparire i corpi nell'atto del concepimento, tuttavia non può fare a meno dell'opera della madre. Quindi il dibattito è antico, però oggi invece molte femministe, molte giovani donne e anche femministe, le cose spesso vanno di pari passo, e una vasta parte dell'opinione, insomma, che è intorno, parlando di genitori gay, preferisce l'espressione maternità surrogata perché la ritiene meno offensiva, GPA, noi diciamo questa sera, no? Però io mi domando, e vi domando, offensiva per chi? Per chi compra, per chi vende, per chi riceve un dono, per chi lo fa? A me, se posso continuare, come no, come no. Anche perché insomma è bene essere chiari, oggi è un momento anche di verità in questa fase storica. A me la maternità surrogata mi fa venire i brividi, perché riduce la donna ad una parte del proprio corpo, come fa sempre ogni patriarcato che si rispetti. Cioè il patriarcato ha fatto sempre questo, una parte per il tutto. Che poi alla maternità surrogata ricorrano coppie etero o gay, per me non fa nessuna differenza. E su questo aggiungo che in tutto questo dibattito non mi convincono le ragioni di chi pensa che i corpi si possono mercificare, e metto da parte tutta la questione sulla prostituzione che ci porterebbe su un altro terreno. Ma proprio sulla questione della maternità surrogata, proprio a maggior ragione in questo caso, i corpi mercificati sono due in realtà, quello della madre e quello del neonato. Poi, pur io non ho competenze scientifiche, neppure giuridiche, mediche, però sono abbastanza età e ho abbastanza immaginazione per sapere che in questo modo il patriarcato mette le mani, come mai ha fatto prima, sulla maternità, con il supporto sempre della scienza e di strutture commerciali adeguate, dove si vanno poi a cercare i cataloghi adeguati. Quindi attraverso la maternità surrogata, e qui faccio riferimento al testo di cui voi parlavate prima, no? La madre viene frantumata. Per la prima volta c'è qualcosa che io non pensavo neanche potesse accadere. Cioè, si prende l'ovulo di una donna, lo si feconda con il seme di un uomo e lo si impianta nell'utero di un'altra. Quindi la razza, il sesso e il colore degli occhi del prodotto finale, che del possono bambino, come scelti. Vogliamo chiamare, li determinano i prezzi del mercato. Certo. Quindi è duro dire questo, ma è la verità, perché infine, appena la donna che viene chiamata donna vaso, in molti contratti internazionali viene chiamata proprio così, portatrice, il prodotto viene affidato agli acquirenti senza essere allattato, per evitare che si crei un legame. Questi, come da contratto, basta leggerli questi contratti, che vengono liberamente sottoscritti, così si dice, io voglio credere. Per me personalmente e come femminista questo è un mercato da contrastare. Il problema è che per altre donne, per altre femministe, questa è una frontiera della libertà femminile. Io posso aggiungere soltanto una cosa rispetto a questo. Ripeto, essendo lesbica, io sto analizzando con te e con Rosina questo aspetto, anche se lo sento molto lontano, però proprio perché sono anche, oltre ad essere lesbica, femminista, ho una pratica politica alle spalle che è quella del partire da me. Sì. Il partire da me mi porta necessariamente a richiedere, ricercare e rivendicare il rispetto del mio corpo, no? Allora, io, tu hai detto che non sei un medico, non sei una tecnica, io forse meno di te, no? Però mi viene da pensare, così a lume di naso, che estrarre un ovulo da una donna non è come andare davanti al frigorifero e prendere una Coca-Cola e berla. Cioè, perché questo possa accadere, certo, alla donna deve essere fatta un bombardamento ormonale che proprio tanto naturale non è, ok? Così come quando quest'ovulo fecondato, dopo che si è scelto il colore dei capelli, gli occhi, la razza, viene messo in quest'altro corpo che lo porterà avanti 9 mesi, il corpo della donna è come dice, fisiologicamente strutturato a prepararsi ad avere una gestazione di 9 mesi, ma anche un proseguo che è quello dell'allattamento. Allora, se per il contratto di cui abbiamo poc'anzi parlato si dice che non può allattarlo, e queste sono cose che sicuramente non ci voglio neanche entrare perché le hai già espresse tu, a me viene da pensare alla donna, al fisico della donna che ha tenuto per 9 mesi questo bambino o bambina all'interno. Significa che c'ha la montata lattea, significa che comunque gli viene il latte. Non è che tu, siccome non lo fai allattare la prima volta, questo latte con un interruttore sparisce. Anche lì lei dovrà essere sottoposta ad una serie di terapie affinché questo latte non ci sia più. Allora, io sinceramente non ho la forza di contrastare quello che viene detto rispetto alla mercificazione. Io questo aspetto non lo voglio prendere in considerazione, o quantomeno non voglio prendere solo questo aspetto in considerazione. Però il rispetto che io sono abituata a richiedere e a pretendere per il corpo delle donne mi fa pensare che forse, come dicevi tu prima, noi dovremmo andare a cercare delle parole per affrontare questo discorso, parole nostre, una sì, riflessione nostra. Cioè, dove va a finire la salvaguardia del corpo delle donne? Capito? La questione è molto complessa, perché è complessa, sì, perché dal punto di vista molte donne ti dicono che quella è libertà. Allora, io ho scelto di tenermi un passo di lato, partendo dalla mia percezione, certo, dalla mia esperienza proprio storica, perché a questo punto questo posso dire, e di dire che io quel tipo di mercato, per me quel tipo di mercato è un mercato da contrastare, e per me non è una frontiera della libertà femminile. Altre credono che sia questo. Quindi non pretendo di convincere nessuno. Ma neanch'io. E non voglio neanche entrare nei dettagli, perché, come dire, può anche essere un gesto violento, no? Non voglio essere trascinata su questo terreno. Perché? Perché le posizioni a questo punto sembrano destinate a non incontrarsi, perché io credo siano con molto, forse per la prima volta siamo di fronte a una frattura molto profonda all'interno del movimento politico delle donne. Ah sì, sì. Molto. Non a caso Irene diceva che ha cambiato le relazioni, no? E quindi le ha modificate profondamente, con esiti che io penso non siamo ancora in grado di definire la portata di questa frattura. Però io personalmente ho potuto misurare la distanza tra me e molte delle donne con cui ho avuto un rapporto politico. E devo dire che ne ho preso atto, però io continuo a pensare che avere un utero non significa avere la proprietà dei bambini partoriti. Assolutamente. E che decidere di portare avanti una gravidanza significa avere cura del nascituro, crescerlo. So anche lo so che molte donne, per molte donne, ci sono donne che pensano diversamente, agiscono diversamente, donne alle quali capita di non potersi occupare del figlio partorito. So anche che il mondo è pieno di bambini abbandonati, venduti, rubati senza il consenso delle madri. Un conto è che questo accada, un conto è che questo venga programmato dalle donne. Per me questo, accettate il programma, io non lo posso... Sì, sì, no, ma infatti il discorso che facevo io prima era proprio perché è una cosa che non capisco, cioè mi rimane però, di difficile comprensione. Caterina, non è che io non lo capisco e basta, cioè io a un certo punto ho dovuto prendere, come dire, scegliere dentro di me dove stare. Mm-hmm. Allora io, rispetto a quella posizione, ho scelto di agire politicamente, di non sottrarmi, di non tirarmi certo. indietro, ma di dire le mie ragioni. Bene, io prima di mandare un pezzo musicale vorrei fare una piccola considerazione. Tu hai parlato della posizione di molte femministe che ritengono che questa sia diciamo una nuova frontiera di libertà. Effettivamente io credo che libertà e consenso possano esistere solo dove non ci sono situazioni di necessità e di bisogno. Non è un caso che le donne che si prestano alla pratica dell'utero in affitto, della gestazione per altri, la maternità surrogata, chiamiamola come vogliamo, in realtà sono donne che spesso e volentieri, ci sono anche quelle che lo fanno così in senso altruistico e vengono da paesi ricchi, la stragrande maggioranza sono donne che sono in difficoltà in paesi poveri dove la povertà è grande, non so, mi viene in mente... Ma la libertà certe volte non ha bisogno di essere regolamentata. Esatto, cioè, esattamente. La libertà è libertà. Esattamente, certo. Quindi dove non c'è diciamo la necessità, forse si può capire una scelta di questo tipo. Io non so quanto possa essere libera una scelta dettata appunto dal bisogno, dalla necessità. Noi sappiamo che nei paesi poveri generalmente le donne sono ancora più povere dei poveri. Esatto. Io direi di mandare un pezzo musicale e di bere un bicchiere d'acqua. Sì, infatti ci si sta seccando, anche perché sono veramente, come diceva, molto provata. Temi tosti proprio. Temi tosti. Sì. Allora, che ci fai sentire? Facciamo sentire All For Me di Dee Bridgewater. Aspita. Bene. E allora rieccoci nuovamente in studio con Pina Nuzzo, stiamo parlando di gestazione per altri. Naturalmente vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, una trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito. Allora Pina, torniamo, facciamo un piccolo passo indietro, torniamo al tuo intervento a Lecce. Nel documento che tu hai presentato, che appunto si intitolava la madre frantumata, fra le altre cose rispondi alle persone che hanno, diciamo, inveito così contro le femministe contrarie alla maternità surrogata, accusandole di essere poco coerenti con gli slogan che hanno, diciamo, caratterizzato in qualche modo, certo, la lotta femminista degli anni 70, tipo l'utero è mio, lo gestisco io sono mia, eccetera eccetera. Ce ne puoi parlare un po' più diffusamente, sì, di questa cosa? Torno volentieri su questo passaggio, perché devo dire che mi ha veramente offeso, mi sono sentita, ho trovato un modo violento di, e anche scorretto, non so, le accuse di non essere state coerenti con gli slogan degli anni 70, quindi appunto l'utero è mio, lo gestisco io sono mia, quindi contraria alla libertà. Ecco, intanto io credo che c'è tanta ignoranza in chi ha detto questo, ma anche molta malafede in chi vorrebbe ridurre l'azione politica di quegli anni a quegli slogan. Certo. In nome di una presunta libertà delle donne di affittare oggi l'utero, no? Mm-hmm. Cioè sono due cose. Ecco, allora io voglio ricordare che quelli erano tempi in cui restare incinta fuori dal matrimonio voleva dire essere considerata una puttana. La paura condizionava la sessualità delle donne, paura di restare incinta sia nel matrimonio o fin dal primo rapporto. Questo, cioè, dobbiamo tener conto degli anni in cui quegli slogan sono stati pensati e detti in pubblico. E gli anticoncezionali, come dicevo prima, erano illegali. E ricordo, forse, insomma, vale la pena dirlo, che il preservativo era considerato una cosa da prostitute. Cioè un uomo, certo, non usava con la propria fidanzata il preservativo, anzi non si poteva neanche immaginare una cosa di questo genere. Mi dispiace dover dire che fra le giovanissime, ho ascoltato diverse indagini, questa cosa è ritornata in auge, e cioè se si usa il preservativo con il proprio fidanzato significa che o non si ha fiducia, certo, o non si è sufficientemente innamorate, oppure insomma è una pratica brutta, deleteria, è meglio non utilizzare. Un po', ma infatti malattie, il tasso delle ragazze giovani che rimangono incinte, infatti, questo è il discorso che facevamo proprio in inizio di trasmissione. Scusami Pina, no, ma serve, perché poi su questo si dovrebbe aprire tutto quel discorso sul lato oscuro di pretendere tutto dalla 194, esatto, e meno tornare, certo, sulla questione per esempio della contraccezione e della prevenzione, certo. Infatti allora noi, come dire, tutta quella battaglia, quegli slogan avevano come sottofondo la paura di rimanere incinta, la paura di dover abortire clandestinamente con il rischio reale e concreto di morire. Certo. E lo stigma sociale. Esatto. Poi ci tengo a dire che noi non abbiamo gridato solo gli slogan, come dicevo prima, no? Ma abbiamo dedicato molto del nostro tempo e delle nostre energie alla promozione dei consultori pubblici. Certo. Noi a quello puntavamo, perché eravamo convinte che il potere maschile si annidasse soprattutto nel monopolio della medicina e nella gestione della salute pubblica. Ci siamo mobilitate per dire no al controllo sociale sul nostro corpo. Certo. Questa è una questione su cui bisognerebbe ritornare, perché io non credo affatto che sia cambiato tanto o ci siamo impegnate, abbiamo ragionato su questo monopolio maschile della medicina, anche se ci sono più donne oggi nella medicina, o in tutti i campi, però come dire, è ancora eterodiretta nel senso di essere diretta da un patriarcato, certo, tutto ciò che riguarda la salute e il corpo delle donne. Beh, una volta noi dicevamo pure che è vero che ci stava la pillola anticoncezionale, ma è sempre comunque sul corpo della donna che si va ad operare, non si è mai pensata a rendere, ecco, sterile temporaneamente un uomo, questo, ad esempio, no? Quindi voglio dire, la dice lunga su chi sceglie di fare cosa, no? Certo. Su chi c'è. Ma anche il discorso che questa autocoscienza di cui si parla tanto, tra le giovani c'è un mito, no, di questa autocoscienza, però è anche vero che avevamo abbastanza innocenza per fare autocoscienza. Che cosa voglio dire? Che potevamo dirci delle cose perché non c'erano altri luoghi dove dirci delle cose. Forse oggi di nuovo è così, perché pur avendo tante informazioni io mi rendo conto che ci sono delle situazioni che a volte mi lasciano senza parole. Quindi forse bisognerebbe tornare a dire io sono mia in quel senso, nel senso come lo dicevamo noi allora, che voleva dire alle altre, a quelle che in piazza con noi non venivano, oppure a quella che ci ascoltava però come dire non aveva il coraggio di farsi avanti, dire puoi contare su di me, puoi contare su di noi. Certo. Ci proponevamo in questa forma di quella che oggi viene chiamata sorellanza, che viene riproposta come sorellanza e forse la chiamavamo così anche allora. Era un modo quello per dire che i problemi delle nostre singole vite non erano una condanna, ma una condizione comune che poteva essere cambiata. A questo noi abbiamo creduto, in questo abbiamo creduto fortemente. Certo. E solo grazie a questo, in un tempo relativamente breve, se ci pensiamo, se guardiamo in termini proprio storici, siamo passate dalla paura della maternità al desiderio della maternità. E dalla paura del desiderio, qui dovremmo aprire tutta un'altra questione, alla libertà di nominarlo il desiderio. Certo. Quindi per me, cioè io non mi pento di aver gridato quegli slogan, ma non mi, come dire, non arretro oggi di fronte a quello che dico quando dico che per me un bambino non è mio, cioè che quello, cioè, quello che esce dal mio corpo, un bambino non è mio, io ho solo la responsabilità di averlo messo al mondo, che è una cosa molto assolutamente diversa. Sì, e anche come dire il discorso che facevi, la espressione della consapevolezza e dell'autodeterminazione di cui oggi si parla molto e spesso e volentieri. No, non dico nient'altro, va bene così. Autodeterminazione e consapevolezza. Certo. Ci sono molte cose oggi che prendiamo l'autodeterminazione, facciamolo questo discorso che è un discorso difficile, no? L'autodeterminazione non è un diritto. Certo. Se fosse un diritto sarebbe un'altra cosa, non avremmo lottato tanto per averlo dentro una legge. Certo. L'autodeterminazione nella 194 riconosce un dato oggettivo, che solo quella donna lì, il primato della madre, come dicevo prima, una donna può decidere entro un tempo preciso, sia chiaro, tre mesi, non oltre, che quella gravidanza può essere portata avanti o no, e lo può decidere solo lei. Il peso di quella decisione sarà suo, solo suo, e questa si chiama responsabilità, voglio dire, questa autodeterminazione ha molto a che fare con il poter decidere. E noi su questo dobbiamo farci i conti, non è una cosa che possiamo io ho letto anche, ho sentito e leggo anche tanti giovani scrivono che insomma poi in fondo abortire uno poi un po' come anche insomma una cosa che poi non è che uno proprio deve soffrire. Certo, non sta scritto da nessuna parte che devi proprio soffrire. Certo. Io parto da me. Per me conquistare la legge 194 voleva dire evitare di morire di aborto clandestino. Certo, esatto. E possibilmente evitare di fare gli aborti, cioè di essere costretta ad abortire. Quindi l'autodeterminazione, torno su questo, dovremmo riflettere un po' di più su che cosa significa, in che relazione sta con il potere, perché il potere non è una cosa semplice, il potere esercitarlo è pesante. Certo. Ma non esercitarlo significa ricondursi alla condizione dell'adolescente, di quella che ha bisogno della tutela. Per questo io non credo che oggi rispetto alla maternità si possa parlare di tutela. Se una donna oggi è libera e siamo in regime di libertà femminile, allora mi devo assumere anche la responsabilità di agire il potere e di sapere come gestirlo perché altre donne siano libere e non siano messe in condizione di schiavitù. Questo discorso sul potere l'abbiamo anche fatto nell'incontro con cui abbiamo preparato questa trasmissione. Secondo te, Pina, perché le donne temono la parola potere? Hanno una difficoltà quando si parla di potere, come una cosa brutta, una cosa che non ci riguarda, una cosa che dobbiamo tenere lontana. Io penso che le donne, oltre ad avere una potenza che è quella stessa che è dettata, che c'è dettata dal nostro corpo, dal nostro vissuto, da tutta quella serie di caratteristiche che ci fanno, sì, che ci fanno essere come siamo. Forse dovremmo anche rimpossessarci, riappropriarci di questo termine e modificarlo in base alle nostre... Io credo che le parole si riempiono anche con l'esperienza. Certo. E più le donne si tengono lontane dal potere, più quel potere si riempie dell'esperienza maschile, del patriarcato, della società maschilista. Cioè, secondo me è questo il punto, e non a caso uso questa parola, anche se so che dà fastidio, perché le parole devono essere, come dire, hanno il loro peso. Certo. Allora, il corpo femminile ha anche una potenza, cioè, però, come dire, questa, per avere un senso e per non essere ricondotta all'onnipotenza, perché le donne, se ci fate caso, insomma, riflettendo sulle cose anche dette negli anni passati nel femminismo, il delirio di onnipotenza, la madre onnipotente, cioè noi sappiamo, ma l'onnipotenza è di chi è costretta all'interno di un potere patriarcale a mantenere quel potere in funzione di qualcun esattamente altro. Infatti le guardiane più potenti del patriarcato sono le donne. Certo. È così che il patriarcato si riperpetua, perché trova in alcune donne il terreno più che fertile, cioè quelle che fanno da controllo e da guardiane. Allora, il patriarcato più difficile da combattere è quello che abbiamo dentro, e per farlo dobbiamo riconoscere un'autorità al nostro corpo, un'autorevolezza, una potenza che mi fa riconoscere nell'altra, perché questo per me è importante, mi fa riconoscere nell'altra un comune destino in positivo, non certo, in negativo. Certo. Cioè, le catene della miseria vanno spezzate, ma vanno spezzate sapendo anche che ci dobbiamo misurare con un'assunzione di responsabilità anche nella gestione delle cose pubbliche, del mondo. Cioè, non possiamo tenerci fuori, secondo me. Io ti ringrazio per aver spiegato questa cosa con una lucidità veramente. Grazie. Che mi sono emozionata. Sì. Scusate, non dovevo dire. A me mi è venuto in mente di farle un'ultima domanda proprio sulla scorta delle ultime cose che hai detto, perché abbiamo ancora 5 minuti e minuti. Li voglio proprio sfruttare tutti. Sembra brutto gli ultimi minuti. No, vabbè, gli ultimi della trasmissione. Una domanda proprio secca. Cosa vuol dire allora oggi per te essere femminista? Guarda, sarò molto concisa. Essere femminista è come essere libere, essere libera, perché non si è libere da sole, ma in relazione e in situazione. Quindi per me essere femminista oggi significa leggere la realtà, situarmi in essa senza finzioni, senza adattarmi. Mm-hmm. Non è facile, non lo è stato mai, ma oggi per me è ancora più difficile, perché alla mia età si rischia l'isolamento. Ma l'alleanza che molte donne, anche femministe a me care, hanno stretto sul terreno della maternità surrogata con uomini etero gay non fa differenza, mi obbliga a ripensare le mie relazioni politiche, mi impone di dire quello che penso nel modo più chiaro possibile, senza ricorrere al femminismo come archeologia, questo ci tengo a dirlo, ma anche senza rinnegare niente della mia esperienza, forse anche in solitudine. Ma intanto tipo, non sarai in solitudine, che già ce ne hai due. sono qua. Già siamo in tre. No, guarda Vina, io ti ringrazio, perché io l'ho detto già nell'introduzione a questa trasmissione, ti incontriamo veramente sempre con molto piacere, perché hai la capacità di mettere a nudo le problematiche, dando delle risposte che condividiamo sempre. Grazie. E quindi grazie per questo tuo intervento. E... sì, il nostro tempo è quasi scaduto. Purtroppo, mandiamo un'ultima canzone e a seguire poi ci saluteremo. La sigla dopo, sulla sigla, allora sulla ci salutiamo canzone. Subito. Ci salutiamo va subito. Bene. Grazie a Pina Nuzzo che è stata con noi stasera. E io grazie a voi, grazie davvero. Per parlare di gestazione per altre, il nostro appuntamento è fra 2 settimane. martedì, ovviamente sempre nel martedì femminista e lesbico autogestito, e avremo non qui con noi in studio, così come abbiamo avuto il piacere di avere Pina, ma l'avremo comunque in collegamento telefonico, Margherita Giacobino, che ci parlerà di Aspirina, la rivista lesbica online. Buonasera a tutte, grazie ancora Pina e grazie a presto. A ok, presto. Noi mandiamo a questo punto la sigla, perché tu hai chiacchierato troppo. Sono chiacchierona, via, va bene. E quindi, allora, un caro saluto sigla. A tutte e sigla. Magari alzo il volume. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me, yeah.